Quindi fu Lezio Losi che in qualche modo ti invitò a far parte del CS Aquila? Lezio era praticamente il factotum dell'Aquila ciclismo. Allora Lezio era proprio, poi era un passionista vero per il ciclismo Lezio. Ti dirò di più, c'era una squadra di amici, cominciare da Lezio, Farofi, noi corridori, era una squadra che si stava bene insieme, ecco. E quindi Amerigo, raccontaci anche un po' come era vissuta dai Montevarchini e da Montevarchi la passione per il ciclismo in quegli anni e com'era Montevarchi in quegli anni rispetto ad oggi. E la passione la c'era tanta per il ciclismo, molto più che nel calcio. Poi c'era il contrasto San Giovanni Montevarchi, allora ci pettinava fra noi. Anche in quel periodo lì c'era anche all'Evane, c'avevano la squadra e anche un loro. Insomma, era sempre guerra, però sempre amici, malgrado di non ma quello, niente. In gara ci si tirava delle legnate, però fuori gara si era amici. Come siamo rimasti amici ora, perché quando ci si trova, purtroppo sono mancati il 90% di insomma, e quando ci si rivede, insomma, viene un po' di macone anche. Quindi anche a Montevarchi mi pare di capire che il ciclismo fosse assolutamente lo sport forse il più seguito, anche più seguito del calcio, è giusto? E gli sportivi dell'epoca andavano sì a vedere le corse ciclistiche ma anche le partite di calcio? Oppure c'era una netta differenza, chi guardava il ciclismo non guardava il calcio e viceversa? No, probabilmente andavano da una parte là, soltanto che se c'era nello stesso giorno, la stessa ora, la partita di calcio e una corsa di biciclette, venivano a vedere la corsa di biciclette. Montevarchi era così in quel periodo, poi dopo il calcio ha preso il sopravvento, e anche perché in quel periodo probabilmente non solo a Montevarchi, ma probabilmente non dico in tutta l'Italia, ma in tutta la Toscana in quel periodo il ciclismo era all'apice. Ora purtroppo io ho visto i giornali, lo stadio è un giornale sportivo, il ciclismo non esiste, per lo stadio il ciclismo non esiste. Invece nel periodo che dico io, il ciclismo sullo stadio era qualcosa di straordinario, pagine intere, risultati di tutte le gare. Ora purtroppo... Erano anche i tempi del probabilmente conflitto sportivo più famoso del Novecento, quello fra Bartali e Coppi, che è stato sì il più famoso del ciclismo, ma probabilmente il conflitto sportivo più famoso dei tempi. Forse, che ne so, Maradona con Pelé potrebbe essere un conflitto a quei livelli, però i due giocavano in epoche differenti, mentre Bartali e Coppi se le davano di sante ragione proprio negli anni in cui anche tu correvi in bicicletta. E forse la toscanità ti faciliterà la risposta. Ma il tuo preferito era Bartali o era Coppi? Secondo me era più forte Coppi. Naturalmente, cuore dice a Bartali. Un toscano, un fiorentino, quindi... però purtroppo era rassegnarsi. Ci raccontano che all'epoca era tanto sentita dalla gente questa rivalità che addirittura le persone si dividevano fra coppiani e bartaliani. Anche a Montevarchi c'era questa divisione, si poteva notare, che ne so, se in un bar, se in un posto c'erano più tifosi di un ciclista piuttosto che dell'altro, e fra di loro come si comportavano? Guarda, probabilmente in un bar c'era i coppiani, nell'altro bar c'era i bartaliani, e erano sempre alle prese, continuamente alle prese, tu senti urlare dire, come pazzi. Però guarda, io vedo, dalle nostre parti probabilmente c'era più coppiani. Allora, Amerigo, torniamo indietro agli anni in cui correvi. In sede di presentazione di puntata ci raccontavi un aneddoto particolare occorso in una gara a Gaiole, che tu vincesti senza freni. Raccontaci per bene sta storia anche a microfoni accesi. Dunque, perché allora le gare erano lunghe e le pesavano allora. Mi ricordo... Prima arrivava a Gaioli, 7-8 km prima a Gaioli, si faceva una salita e siamo rimasti in due. Al momento in cui siamo entrati nella discesa, mi si sono rotto tutti e due i fili di freni. L'altro che era con me se ne è accorto e ha tentato di andarmi via, ma io, piedi, gli scarpini sulla gomma di dietro, facevo di tutto. E infatti in fondo alla discesa avevo perso poi i metri. gli sono ritornato sotto e gli ho detto: guarda, mettiti il cuore in pace perché oggi e vengo io, gli dissi. A brutto muso, perché mi aveva fatto, insomma, quando si è accorto che non avevo freni, lui gli attentava bene, aveva fatto il suo interesse. E alla polizia stradale l'erano di scorta e gli ho detto: guardate, dopo l'arrivo ditegli alle persone non facci niccune come fanno sempre, perché io freno non ce li ho, e la volata la fo, o bene o male, io per fermarmi bisognava nella salita c'è dopo. E infatti poi siamo arrivati in volato, ho vinto io e la strada l'ho trovata libera e non è successo niente. E tra l'altro la volata era fra due corridori dell'Aquila. Ma mi sembrava il Farzini l'altro, però vorrei sbagliare perché sai, la memoria la fa un po' schifo. Perché che anno era esattamente? E mi pare fosse 50 o 51, perché io all'Aquila ho fatto 50, 51 e 52. E poi in 53 anche come indipendente ero tesserato con D'Aquila. Quindi, partendo da questa vittoria senza freni, ci viene in mente che nel 50, nel 51, in quegli anni lì, quando tu correvi, le attrezzature fossero molto primordiali, mettiamo così, molto primitive rispetto ai ciclisti di oggi che hanno le super biciclette, i rapporti diversi. Cioè, quelle che correvi tu erano tutte eroiche sostanzialmente, per citare la famosa corsa che richiama proprio quei tempi del ciclismo. Erano tutte eroiche, era molto più difficile, era molto più duro rispetto ad oggi. Le biciclette di oggi ce ne vuole due per fare il peso di allora. Poi ti dirò di più, io la prima doppia multipla l'ho vista nel 49 a Perugia, che c'era una gara e c'era dei francesi, ho visto la doppia multipla per la prima volta. Però io non ce l'avevo la doppia multipla, sapeva, una multipla sola e quattro rapporti dietro. 49 davanti, dietro 15, 17, 19 e 21. E con quelle si doveva fare tutte le gare, salite, non salite. Poi in più ci sarebbe il cambio campagnolo, ma non il campagnolo con la levetta non c'è ora, sarebbe il campagnolo con la doppia leva di dietro, che bisognava allentare la rosa, spostare la seconda leva per cambiare la catena e restringere la rosa. E questa era l'attrezzatura, la bicicletta che avevi quando eri dilettante. Quando poi sei passato professionista, la bicicletta era migliorata? Era migliorata, però non era ci fosse un... i rapporti ce n'era di più. C'era la doppia multipla, 5 rapporti, però insomma non era le biciclette di oggi. Perché io c'ho una Bianchi, lasciamo un sacco d'anni, molto migliore di quelle aveva allora. Doppia multipla, 9 rapporti. Sognavano rapporto allora, perché poi si faceva le salite con quei rapporti lì, perché 49-21 era il rapporto più agile e si entravano delle salite, che poi tra l'altro non era la strada come ora, terrata, buche, infatti nel periodo del corso io nei dilettanti la selezione non c'era bisogno delle salite, con le strade c'era allora la selezione la veniva automatica però. Sì, poi nelle salite succedeva il finimondo, però non era che si aspettava le salite per fare, no, la veniva subito la selezione. Poi c'era un fatto, minimo ogni gara partiva a gomma allora. Le strade pessime... Allora non c'era il cambio rosa, Guai a cambiare una rosa, levando all'ordine arrivo, Levare la rosa, levare il tubolare forato, rimettere il tubolare buono, gonfiarlo, rimettere la rosa e ripartire. Partì a minuti, Però era una cosa all'ordine del giorno allora. Succedeva. Il peggio era che quando tu dovevi inseguire per rientrare nel gruppo, trovai le macchine con la polvere. Infatti c'aveva gli occhiali tipo motociclista allora, sicurezza. C'aveva gli occhiali che ti chiudevano, se no non ce la facevi. Mentre invece, citando quella che era anche l'abbigliamento del tempo, ora voi non lo potete vedere, ma noi abbiamo qui davanti un esemplare, una replica di una delle maglie dell'Aquila del tempo. Però Amerigo, prima ci raccontavi che erano effettivamente diverse, che erano anche molto apprezzate. Sì, erano così, piacevano a tanti le maglie lì, anche perché ora questa davanti le quale a quelle nostre, ma dietro non era così. Allora c'erano le due strisce verticali, blu e rossa, ma verticale l'era da cima dal colletto fino in fondo. Poi questa non ce l'ha, c'avevano tasche davanti, che lì bisognava portare il rifornimento, bisognava portarlo noi. perché poi un periodo venne anche che non si poteva prendere da bere, non si poteva andare da bere, per prendere da bere da estranei bisognava ce lo mettessero su un muretto e si prendeva. Io mi ricordo una corsa pare a Barberino al Mucello, che la vinse il Ciolli, lo levarono dall'ordine d'arrivo perché uno gli aveva dato una bottiglia d'acqua. Ma questo per quale ragione? È il regolamento. Infatti, la prova di campionato italiano le ha vicino a Napoli, un paesino vicino a Napoli c'era una prova di campionato italiano. Ci hanno fatto l'appello. Allora, era un bollore tremendo. Ci hanno tenuto un'ora e mezzo, quasi due ore, in mezzo alla strada e sole. E da bere non si poteva prendere. Però loro sulle macchine avevano tante bottiglie di da bere. Poi le andava a finire uno sciopero. Sì, sì, venne fuori uno sciopero, eh. Perché poi successe questo anche. Siamo partiti e c'è stata una fughetta in partenza, ce n'era nove, mi pare, ne erano in fuga, e trovarono un passaggio a livello, chiuso. Loro passarono, noi ci fermarono. E siamo stati lì 7-8 minuti e poi ci hanno fatto ripartire. Allora, tutti si è chiesto, fermate anche loro, fategli ripartire con il vantaggio che ci avevano. Perché loro sono passati noi? No. Allora sai che è successo? Che dovevamo vedere un circuito. Quando sono arrivati nei nove lì c'era tutte le biciclette di noi in mezzo alla strada. E poi gli venivo fuori un macello lì, perché quando siamo rientrati a Caivano l'era, ecco. Quando siamo rientrati a Caivano in bicicletta c'era il canto della bandiera rossa e il canto della Biancofiore che cantava. È venuta la polizia, no? Che poi si è fatto fermare anche loro. Poi sono stati fatti ripartire loro, naturalmente loro avevano fatto il suo, allora furono fatti ripartire. Quando ripartì loro, qualcuno di noi fermi intese intrufolarsi e la fecero là su, però ci fu le squalifiche, io ebbi 10 giorni di squalifica. Minardi, lo sapete, il corridore di Stato, un mese. Minardi un mese, poi c'era un romano, a lui dettero 6 mesi. Però le levarono tutte le squalifiche, perché non mi ricordo se vinse, mi pare, Giro di Francia Coppi, mi pare, nel 49, sì, vinse Coppi. E allora levarono tutte le squalifiche a tutti. Continuando il nostro parallelo fra il ciclismo di allora e il ciclismo di oggi, il Montevarchi di allora e la Montevarchi di oggi, viene naturale pensare che come alcuni calciatori che giocavano negli anni 60 ci hanno detto questa cosa, che anche nel ciclismo ci fosse differenza rispetto ad oggi nell'ingaggio di un professionista. All'epoca in cui Amerigo Sarri è stato professionista, che tipo di ingaggio era? Era un ingaggio che permetteva una vita da andababbo come magari è oggi, oppure no? E i premi? Un ingaggio poco più di uno che lavorava. Uno stipendio poco più alto di uno stipendio di uno che lavorava allora. E più o meno quanto era in lire, riesci a ricordarlo? A parte i campioni che parlavano di milioni, perché poi c'era le riunioni in pista, io mi ricordo in quelle quali c'era i Coppi, Petrucci, prendeva mezzo milione per riunione, allora mezzo milione era roba da pazzi. Purtroppo gli altri, le briciole, 25-30 mila lire in mese, che erano già un buono stipendio, però uno quando finiva di correre gli toccava andare a lavorare, perché con quello facevo la strada, e io preferivo andare a lavorare prima di smettere, prima di arrivare all'anzianità. E Amerigo, considerando quell'epoca, considerando che comunque fare lo sportivo professionista, malgrado tutto, era un livello superiore rispetto a tanti mestieri che comunque non davano una garanzia di vita agiata, o quantomeno erano piuttosto complessi da fare, in un certo senso, da sobbarcarsi. Qual è stato il motivo per cui hai deciso di abbandonare la carriera professionistica? Cos'è che ti ha dato fastidio nel professionismo? Beh, io, siccome io sono stato sempre una persona leale, e lì la lealtà non c'era. Era tutto un nascondere una cosa, un'altra. E sono rimasto così, non so nemmeno spiegare, così male che ho detto no, basta, perché questo non è un ambiente per me, perché io ero troppo genuino, dicendolo proprio francamente. Io pensavo che tutte le altre persone fossero invece no. Chi era ruffiano, chi era... C'era un po' di tutto. E allora sto meglio a casa mia senza rompermi l'anima. Io ci dico, perché poi dopo dice anche quello di guadagno. era la passione, più che pensare a guadagnare, era la passione, se no chi ce lo faceva fare quella vita per 3 lire? Perché ci aveva una passione immensa, perlomeno io avevo una passione, come ce l'ho ancora, come ce l'ho sempre avuta, escluso i 5 anni che ho detto prima e sono stato senza nemmeno vedere un ordine d'arrivo, fra l'altro era lavorare via da casa, poi adesso sono rientrato, ho ripreso la bicicletta, ho fatto il ciclamatore. Io vi racconto una cosa, la passione me l'è. Io lavoravo a Firenze, va bene? Mi ricordo l'Energy, il Giro d'Italia dei ciclamatori. Partiva da Spoleto. Allora io il giorno prima della partenza era a lavorare a Firenze. Ho preso le ferie, sono andato a Spoleto la sera prima della partenza. Ora chi me lo faceva fare se non c'aveva una passione in quella maniera? È quella, la passione è rimasta, quella lì ormai ce l'ho qui nella testa e sarà sbagliato, sarà perché anche là di fare il ciclamatore, a parte il fatto che io mi divertivo, perché prima cosa fatica da ciclamatore non fatta poco, anche perché io ero in una categoria che andava a categorie, che in confronto a tanti della mia categoria io devo fare, infatti vince qualcun altro quando lo lasciano andare in quel periodo lì. E poi anche lì a un certo punto dissi io fino a 50 anni lo fu, a 50 anni smetti, infatti vinci il campionato a 50 anni, però la passione la c'è sempre, la giratina in bicicletta la fu ancora. Sulla mia bicicletta a corsa ancora. E quando parli di giratina, mediamente quanti chilometri intendi? Una quarantina, 45, sì, tutta pianura però. La salita l'ho abolita ora, non vedo una salita con marcia indietro. Ricordiamo ai radioascoltatori che Amerigo ha la bellezza di 89 anni e quindi 40 chilometri glieli concediamo che siano solo in pianura, insomma, ecco, direi io a malapena riesco ad andare a comprare il pane in bicicletta. Amerigo, essendo stato tu una promessa del ciclismo da dilettante, poi dopo il passaggio nei professionismi, per i motivi che ci hai già spiegato, hai preferito appendere la bicicletta al chiodo. Però il tuo palmarès è stato molto importante nei tuoi anni da dilettante, quindi ricordaci un po' quante vittorie hai fatto e qual è stata la vittoria più bella che ti ricordi. Le vittorie sono da 50 a 60 vittorie. Ora mi ricordo con precisione la vittoria più bella, è difficile perché probabilmente l'è stata la prima d'Aglio con Marcello e Mialli, che era molto più veloce di me, fatto in un anno ho fatto 9 secondi posti dietro a lui, ho battuto un volato a lui, ecco, quella mi è rimasta nella testa. Che corsa era? Era una corsa a Firenze, ora me lo ricordo, era una corsa a Firenze, l'arrivo era in Viale Petrarca. Quello mi ricordo, un vialone lungo, che sono partito da lontano e probabilmente non c'era perché Marcello è amicidiale, gli ultimi 50 metri te lo vedi, venì fuori e giusto. E fra l'altro io non era, fosse fermo volata. Infatti dopo quando siamo nei dilettanti, nei gruppettini, quando si arriva ai gruppettini 5 o 6, non ci avevano spago nessuno nei gruppettini. Se tu fossi un corridore di oggi, che tipo di corridore saresti? Oggi diamo, almeno io forse lo davate anche negli anni 50, però io non lo so. Oggi sentiamo, che ne so, che Tizio è il velocista e Caio è lo scalatore e quello predilige la corsa in linea a tappe o la grande classica. E Amerigo, oggi che corridore sarebbe stato? Io probabilmente sarei stato un corridore della corsa a tappe, perché avevo un gran recupero. Infatti le prime visite medie, perché poi i primi anni la visita media sì, la ci si sognava. Poi dopo quando venne le prime visite medie avevo un gran recupero. Nell'arco di 1:30 tornavo nella norma una pulsazione. A parte il fatto che di 130 come sono andato, massimo 133 mi ricordo. Però in 1:30 tornavo nella norma, l'avevo bassissima le pulsazioni. Mentre invece, continuando un raffronto tra diverse epoche, laddove oggi si cura molto l'alimentazione, c'è molta attenzione al peso e alla forma fisica del ciclista, come veniva gestito questo ambito fisico ai tempi in cui correvi te, Amerigo? Mangiare si mangiava e lo si voleva. Prima della gara un bello coso di pasta asciutta e mi ce lo levava nessuno. il peso ci sta mia dietro il peso, ci si allenava, se si allava bene, se no si rimaneva in quella maniera, ma nessuno ci pensava il peso, a non mangiare, chi sta senza mangiare? Non volevo mica morire io volevo mangiare, e che ce n'era poco da mangiare allora, il fatto che era bello. E Amerigo, quindi mangiavate di tutto e di più anche prima della gara, però nel mito collettivo che ci viene passato a noi giovani di questi tempi, diciamo, è che nel ciclismo di allora ci fossero le bombe, le sostanze proibite. Fantozzi stesso fa scherno, parlando di una certa Italia, alla famosa bomba durante una famosissima corsa ciclistica della sua mega ditta. Ma questa bomba esisteva davvero? Ci aveva ragione Fantozzi oppure no? Io non so i grandi corridori se prendevano, fra noi, non tutti, ma tanti prendevano qualche pasticca, estenamina, simpamina. A livelli di campioni non lo so, non lo posso dire. Sai, se anche le prendevano, non si diceva, non vorrei dire una parolaccia, era roba sua. Che comunque, tra l'altro, se non mi sbaglio, all'epoca non era reato. No, perché non c'era né doping né niente, ognuno faceva quello che voleva. Okay, quindi diciamo che Fantozzi aveva parzialmente ragione, ecco, mettiamola così. Paolo Villaggio, Fantozzi ci ha quasi preso. Torniamo un attimo a Montevarchi, torniamo all'Aquila. Con la nostra trasmissione noi diciamo spesso di fare un'indagine di quella che definiamo la montevarchinità, un neologismo che rappresenti un modo di vivere la vita alla montevarchina, come ci piace dire a noi. A questo proposito, cosa succedeva, tornando a Montevarchi, agli arrivi delle corse, in relazione anche alle rivalità, rispetto al pubblico? La rivalità, quella con San Giovanni, era sacra. Quella c'era un... e se le davano anche, se le davano anche. Perché poi dice, ma lui ha fatto questo, non ha fatto quest'altro, invece... Noi in gara ognuno tirava l'acqua sul mulino, però dopo la gara, amici come prima. Invece il pubblico voleva sapere. Ho visto delle beghe dopo l'arrivo, io ho visto delle beghe, ma si picchiano come pugili. Era un pretesto ottimo anche il cilismo, quindi per provare a far sì che la montevarchinità avesse la supremazia su chissà chi altro nemico. A differenza di ora c'è i divertimenti, c'è tante cose che allora non c'erano, e probabilmente il ciclismo faceva sfogare un po' tutto quello che mancava, ecco, perché mancava tante cose allora, non è come ora si va sui binarini, allora era lotta per la vita, vero? Mi aggancio a questa tua fotografia, la lotta per la vita, visto che tu correvi ai tempi in cui i grandi campioni Bartali e Coppi si davano battaglia, la famosissima foto dello scambio di borraccia fra Coppi e Bartali è proprio una cosa personale che io me la chiedo, pur non amando il ciclismo, pur non essendone attratto, me la chiedo fin da quando sono bambino, e mi sa che molti ascoltatori si faranno la stessa domanda. Amerigo, ma secondo te, ma quella borraccia l'ha passata Coppi a Bartali o viceversa? Quella borraccia non era una borraccia, era una bottiglia. L'hanno data a Bartali uno spettatore e lui l'ha passata in corso. Quindi? Per quello io ho parlato con Bartali, con Coppi sì, ma insomma era un po' non schicchignoso, era un po' timido, non lo so nemmeno. Con Bartali invece si parlava bene, nonostante i suoi difetti, i difetti miei anche, però io con Bartali ho avuto sempre un... e lui mi disse... E mi diceva, quella borraccia lì non è una borraccia, è una bottiglia che l'hanno data a Bartali, uno spettatore, e l'ha passata. Infatti, le borracce ce l'hanno tutte e due nel portaborraccia. Quindi, dipanato il mistero della borraccia direttamente dalla memoria che arriva da uno dei protagonisti dell'episodio, quindi direi che possiamo essere abbastanza allegri di aver trovato il bandolo della matassa. Verissimo Fumino, anche se però le cose potrebbero essere andate in un modo differente. Ad esempio abbiamo qui davanti il libro Bartali, il mito oscurato di Giancarlo Brocci, che è il padre dell'eroica e che tra l'altro è qui presente con noi in trasmissione, anzi che ringraziamo insieme ad Alberto Caponi per aver in un modo o nell'altro organizzato questa serata, organizzato questo incontro e aver preparato anche noi, che tutto sommato di ciclismo non ce ne intendiamo tantissimo, a poter parlare con Amerigo. E infatti, come dicevi tu, proprio nel libro Bartali, Il mito oscurato, c'è un'intera parte dedicata al famoso episodio dello scambio di borraccia, anche se stasera abbiamo appurato, evidentemente il volo dell'Aquila rivela segreti, abbiamo scoperto che Bencini non si chiama Piero, abbiamo scoperto un sacco di cose e stasera abbiamo scoperto che la borraccia che si sono passati Bartali e Coppi non era una borraccia ma una bottiglia. E proprio dentro questo libro, se qualcuno lo vorrà leggere, troverà tutto quello che concerne la storia di questo scambio. Dunque, mi unisco a Julian per i ringraziamenti ad Alberto Caponi e a Giancarlo Brocci per aver organizzato la serata e un grazie immenso ad Amerigo Sarri per essere stato con noi, per aver accettato di far parte della famiglia del Volo dell'Aquila e di essere stato così splendido nel snocciolare i propri ricordi. Grazie. No, io vi ringrazio voi della... Ho passato una serata magnifica con Brocci, anche perché io so che ha avuto dei problemi, l'hanno fatto un po' patire, questo lo so, però è il creatore dell'eroica lui, volere o non volere l'ha creata lui e nessuno gliela leva. Ci sarà modo per tornare a parlare di ciclismo, tornare a parlare dell'eroica e anche appunto del libro Bartali, il mito oscurato di Giancarlo Brocci qui su Radio Big World. Salutiamo quindi i nostri ascoltatori ringraziando ancora Amerigo Sarri per la presenza. Buona serata a tutti. Buona serata. Sai, le sale è che è troppo, quella la tocca a tutti. Si lascia fare. No. Politica e religione non se ne pare. Ci fu l'indulto, eh? Sì, perché poi dopo quello gli da tanti mesi si era messo sul balcone, faceva il comizio. aspetta, mi dico. Più la leggevo più che scappato, sì. Vai. Mentre invece in relazione a la questione relativa al doping nel ciclismo, che è di attualità, lo è stato negli anni precedenti. No, sto tornando nella serie fa. Allora. No, per me.